litania, compagni sulle barricate. Barricate di cuori e di anime, è un vero comunista solo chi ha bruciato i ponti della ritirata. Basta con la mazza, un mazzo del futuro. Basta costruire una locomotiva, fa girare le ruote. Thank you.